of our common dangers. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Well, you're coming? Where? Why, to the North Pole, of course. This is the Polar Express. Hey, you. You know what kind of train this is? It's a magic train. Scusate, ma eravamo ipnotizzati dalle immagini di un servizio di Fox News che, nel quale alcuni ospiti dibattono attorno al serio problema dell'aeroporto O'Hare di Chicago, l'aeroporto più grande, più trafficato da America, che per ampliare le proprie piste sta pensando seriamente di sfrattare un cimitero. In questo momento infatti c'è un prete che parla con aria molto contrita. E ci sono già state, sono passate già alcune immagini piuttosto impressionanti di aerei che praticamente già adesso atterrano fra le tombe. Insomma, potete immaginarvi uno sceneggiatore di Hollywood con una buona fantasia, non so, uno tipo Joe Esteras, quelli che vanno giù con la mano pesante, partendo da questo dove può arrivare, no? I sepolcri sfrattati dall'aeroporto e naturalmente poi la debita vendetta dei trapassati. No, ma eravamo invece all'ascolto di Polar Express, che riprendiamo. Get us the blazes out of here! Film di Natale, semmai uno anche in età adulta ci è piaciuto e ci ha coinvolto, perché non solo gli zombie ma anche i presidenti di tanto in tanto, ebbene sì, lo fanno il famoso gesto. George W. Bush era specializzato nel gesto e poi di solito nelle imbarazzanti conseguenze di togliersi la giacchetta e entrare in un'aula di scuola, di solito elementare, mettersi a seduti, mettersi accucciati, no, su un banco tra i bambini e così ritrovare un pezzetto della loro, no, adolescenza. Lo ha fatto naturalmente anche Barack Obama, perché a certi obblighi non si scappa. È andato in una scuola che si chiama Boys and Girls Club, Northeast Washington, ad essere una scuola privata dal nome. Si è portato, oltre immagino alla solita teoria di servizi segreti, security e motociclisti, che spero saranno rimasti fuori, si è portato anche un cesto di dolcetti, recitano le notizie e i servizi di questa mattina, e soprattutto si è portato il libro di Polar Express. È entrato in classe dove lo aspettavano 27 squittenti, questa è la parola usata dalla agenzia americana, squittenti bambini dai 6 agli 11 anni, e ha chiesto loro: la domanda è, siete stati buoni? Ve li meritate i dolcetti? I bambini, che sono stati preventivamente avvisati, istruiti dalla maestra, hanno risposto in senso affermativo, se no la messa in scena si fermava lì. E allora Obama ha detto che avrebbe letto per loro alcune pagine di Polar Express, tanto per darvi il senso del Natale. To get in right Christmas mood, questa è la spiegazione che ho offerto ai ragazzini. E poi ha solo aggiunto: e non solo, mi tolgo anche la giacca, ragazzi, perché questo è un libro serio. Questa è una tipica battuta in stile Obama. Poi ci ha messo sopra un po' del suo savoir-faire da consumato comunicatore e ha detto: ragazzi, voi avete così tanto potenziale dentro di voi, ciascuno di voi ha un tale potenziale che un giorno potrebbe essere presidente. Se ci sono riuscito io, in pratica ha detto loro, potete riuscirci anche voi, però dovete stare ben attenti, concentrati, focalizzati a scuola e non pensare mai di lasciare la scuola. Io voglio che voi continuate i vostri studi con serietà e consumate i vostri libri e fate tanto ben di conto anche. Insomma, questi sono i passatempi che si prende Barack Obama, perché è Natale anche per il presidente, e i grattacapi sono, come dire, in circolo tutti attorno al suo ufficio, grattacapi che arrivano dall'interno, grattacapi che arrivano anche naturalmente dagli scenari internazionali, proprio dallo scenario di crisi per antonomasia, quello medio orientale. Tra l'altro oggi arrivano un paio di notizie che invece si collocano più che nella cronaca vera e propria di guerra e di occupazione, si collocano nello stile di vita che ormai quella che è una vera e propria nazione a sé stante, ovvero il distaccamento militare americano in Iraq e in Afghanistan, vive, no? Secondo quali regole, secondo quali leggi particolari. Una cosa riguarda peraltro laterale, riguarda il contingente britannico, cioè incuriosito questa notizia, abbiamo voluto riportarvela perché per l'anno prossimo i soldati inglesi hanno deciso di cambiare il motivo cromatico della mimetizzazione delle loro divise, ed è un cambiamento drammatico. Ci sono le fotografie su CNN, su Fox, in cui si vedono le divise prima e le divise dopo, e sono completamente diverse. Le divise prima erano chiare, tutte sul beige, sul color sabbia, queste di adesso sono verdi scure con macchie marroni, e l'esperto di settore ha spiegato che tutto ciò è stato fatto per migliorare naturalmente la capacità di mimetizzazione dei soldati inglesi durante le loro operazioni. La domanda che ci viene da dire è come ci hanno pensato all'altezza del 2010, dal momento che sono lì da 7-8 anni, ma questa è comunque la notizia. L'altra notizia riguarda invece il contingente americano, ed è ben particolare anche perché ha a che fare con le procedure, no, femminili di gravidanza. Insomma, cosa succede se si resta incinta, che è una questione che, come vedremo tra pochissimo, è in discussione anche per quello che riguarda il grande dibattito nazionale interno in America. Invece, per quello che riguarda le soldatesse in Iraq, che mai dovessero restare incinta, sono guai serissimi. Ne ha parlato il generale Anthony Cucolò, di chiare origini italiane, che ha detto ragazzi e ragazze, ragazzi intesi, aspetta, fatemi trovare la parola, intesi come coloro che mettono incinta eventualmente una signorina, impregnating soldier, che insomma la parola parla da sola, o le ragazze restano incinta, rischiano niente meno che la corte marziale. Le motivazioni sono di ordine etico e professionale, ha spiegato il generale Cucolo. Siamo al limite minimo di truppe necessarie per proseguire queste operazioni, non vogliamo che nessuno lasci il proprio posto prima dello scadere dei 12 mesi di stanziamento che sono previsti. Solo serissime motivazioni di carattere sanitario, medico, possono autorizzare un rientro anticipato di un soldato o di una soldatessa, che sono 1682 dei 22.000 sotto il comando di Cucolo. Negli altri casi non se ne parla neppure, è una questione di etica, ha detto il generale, e le conseguenze possono essere molto serie e saranno completamente gestite dallo stesso Cucolo, che ha fatto capire che però l'unico caso in cui non avverrebbe una punizione di questo genere, ovvero il ricorso alla corte marziale con relativi e provvedimenti, sarebbe in caso di violenza sessuale. Questo spiega in un certo senso come anche il costume, no, di questa lunga storia degli americani in Medio Oriente sotto forma di presenza militare si stia modificando, stia trovando una propria logica. Now I have a secret to tell you. Last month my girlfriend Christine and I got engaged. Questa voce non siete abituati a sentirla in questo formato, così quasi da, no, da discorso, da podio, da comizio. Siete abituati a sentirla invece in termini ben più vellutati quando dice una delle sue battute nel corso di Sex and the City. Si chiama Cynthia Nixon, è una del memorabile, celebre quartetto di ragazze di Sex and the City, è anche una lesbica, omosessuale, confessa che ha reso noto la propria scelta, il proprio orientamento sessuale, la propria intenzione di sposarsi, tra l'altro, a New York, se sarà possibile, con la propria compagna, ma è diventato in queste ultime ore anche una portabandiera della difesa del diritto di aborto per le donne americane, a fronte naturalmente soprattutto del formato che sta prendendo la riforma della sanità in America, ormai sul limitare del voto. Ha detto: guardate che questo è un diritto essenziale delle donne che dobbiamo proteggere a tutti i costi. Quello che stanno facendo con i loro emendamenti, che vanno sotto il nome di Stupak Pitz, il repubblicano e il democratico, che stanno lavorando con ottimi risultati alla sottrazione dell'aborto dal pacchetto di riforma sanitaria, è del tutto ingiusto e mette la vita delle madri americane in pericolo. La sostanza della linea di Cynthia Nixon e di molti progressisti è che l'aborto torni a essere un diritto per ricchi. E a proposito della legge di riforma della sanità, che prima di Natale dovrebbe andare al voto di svolta, vi leggo quanto pubblica il New York Times di oggi in un editoriale ufficiale, un editoriale non firmato, ovvero che rappresenta la linea ufficiale del quotidiano sulla questione. Di solito vengono scritti a più mani al termine di una riunione che sancisce il punto di vista operativo ufficiale della redazione. L'articolo si intitola "Una legge che si merita di essere approvata" e dice: il progetto legislativo di riforma della sanità messo insieme dai leader democratici del Senato per garantirsi il sostegno di tutti e 60 i membri della loro inquieta maggioranza, con la cifra a prova di ostruzionismo che ne assicuri il passaggio, è sotto duro attacco da parte di una compatta opposizione repubblicana, il che provoca parecchia preoccupazione tra i progressisti, che temono che fin troppe concessioni vengano accordate a un manipolo di conservatori. Il progetto di legge, che è in moto verso un drammatico voto di approvazione questa settimana, ha diverse imperfezioni, ma merita il sostegno dei legislatori seriamente interessati alla riforma della sanità. Sono molte le cose di cui compiacersi in questo pacchetto di provvedimenti. L'ufficio del Congresso per il budget stima che la legge arriverà a coprire le necessità di più di 30 milioni di persone attualmente prive di assicurazione, facendo in modo che entro il 2019 il 94% dei cittadini americani al di sotto dei limiti di età di Medicare, che è il meccanismo di copertura sanitaria degli anziani, possano contare sull'assistenza, un deciso progresso dall'attuale percentuale dell'83%. È stato anche stimato che la legge ridurrà di 132 miliardi di dollari il deficit nel giro dei prossimi 10 anni e che la cifra si incrementerà ulteriormente nel decennio successivo. A dispetto di tutta l'esagerata retorica repubblicana sui guasti fiscali provocati dal decreto, si è messa tutta l'attenzione necessaria e tutto il senso di responsabilità utile a garantire che il provvedimento si ripagherà senza minare i futuri bilanci nazionali. E poi l'articolo procede sostenendo che sono stati pagati dei prezzi di compromesso per portare alla approvazione questo pacchetto di riforma, ma conclude l'articolo: anche a fronte di tutto ciò, si accenna naturalmente per l'appunto alla questione dell'aborto, una concessione che il Senato data al Senato che consentirà ai singoli stati di escludere la copertura dell'aborto dai piani sanitari, ma a fronte di tutto ciò, conclude il New York Times di oggi, gli Stati Uniti d'America in questi giorni hanno la possibilità di superare tutte le contraddizioni che hanno a lungo messo a dura prova la fiducia dei cittadini, dando finalmente il via libera a un provvedimento legale di portata storica. Buongiorno America. June is definitely in the middle of a love triangle, to say the least. And how is it filming such a dark thriller? I was very drawn to this because of its noir quality. E questa voce risuona in tutti i talk show, tutti i notiziari della mattina, nelle televisioni degli americani, ed è una nota dolente, perché è la voce di Brittany Murphy, la giovanissima attrice, solo 32 anni, che è morta improvvisamente ieri, e attorno alla quale si è molto discusso, molto ragionato per le ragioni della morte, di questa prematura scomparsa, per capirne le motivazioni, ma anche poi per invocare, no, questi meccanismi della celebrità, che vogliono poi alla fine che una presenza pubblica, una celebrity magari anche in vaga decadenza, no? Perché la carriera di Brittany Murphy, dopo un paio di successi, non aveva conosciuto, no, poi quel decollo assoluto che ci si aspettava. Era diventata un po' una figura di secondo piano di Hollywood, poi, no, morire giovani, come disse uno che poi morì giovane per l'appunto, River Phoenix, disse: ah, guardate, a me piacerebbe essere il più bel cadavere dell'obitorio, e poi un paio d'anni dopo lo sarebbe tragicamente stato. Ma nel dire quella frase aveva interpretato, no, con uno stile molto disincantato, quella che è una delle regole della celebrità: fare comunque sempre notizia, addirittura nel delirio che può fare da pandan al diventare famosi, la fame, addirittura a costo di morire. Comunque si è tenuta l'autopsia sul corpo di Brittany Murphy, continua a sembrare che non emergano altre motivazioni che una naturale morte per questioni forse legate a una precedente cartella clinica non completamente rassicurante. La Murphy era diabetica, aveva comunque dei trascorsi di utilizzo di sostanze stupefacenti, ma insomma non esiste un vero e proprio fattore scatenante alla base, almeno per ora, almeno per quanto è stato accertato finora, della sua morte. Impazza Facebook, impazza Twitter, impazzano le televisioni e i notiziari americani. Brittany Murphy si è vista restituire quella celebrità che era un po' scomparsa, dando ancora una volta ragione a chi vuole che nel mondo dello spettacolo tutto va avanti, e per favore che non si invochi, no, la decenza, la dignità o semplicemente una certa correttezza. I'm a bottom line kind of guy. I'll lay it out. It's gonna hurt. And we'll let the chips fall where they may. A proposito di correttezza, scusate, ma questi ultimi 5 minuti li trascorriamo in assoluta scorrettezza, perché una delle testate informative americane che più stimiamo, ovvero The Politico, ha definitivamente attribuito al 2009 una etichetta che condividiamo in pieno: l'anno dello scandalo. Ne sono successi di tutti i colori, e parliamo anche soltanto di politico, di dintorni della politica. Il signore che parla qua sotto, uno dei protagonisti, tra poco ce ne renderà conto. Potrebbe essere chiamato anche semplicemente l'anno delle corna, perché poi nella maggior parte dei casi di quello si tratta, e comunque la deduzione che se ne ricava è che poi, insomma, un po' tutto il mondo è paese, non è che noi dobbiamo pensare di stare così peggio, no? di uno scenario politico come quello americano, che pure è ben severo, attento, pronto a giudicare, ma poi di magagne ne escono fuori di tutti i generi. Per esempio Mark Sanford, uno degli uomini da ricordare alla voce l'anno dello scandalo. Mark Sanford, governatore della Carolina del Sud, qui colto nella sua famosa tragica, se permettete, conferenza stampa, in cui ammise che sì, effettivamente l'aveva fatta proprio grossa, e che non era mica tanto vero che lui aveva questa passione per le lunghe camminate nei Monti Appalachi, laddove sui Monti Appalachi i telefoni cellulari non prendono, ma che in effetti aveva molto più semplicemente una amante, per la fattispecie argentina, dalla quale volava ben volentieri. Si è cercato di capire a spese di chi, c'è un sospetto sul fatto che i contribuenti fossero quelli che finanziavano queste spedizioni amorose. Si è giocato la moglie, il nostro Mark Sanford, governatore repubblicano della Carolina, che se n'è prontamente andata da casa e ha chiesto il divorzio, chiamando come causa una esperienza triste e dolorosa. Lui si è dimesso da un paio di commissioni, ma quello che è bello è che non si è dimesso comunque, nonostante la gran balla, no? Perché poi quella aveva raccontato, e per i politici americani sarebbe piuttosto importante non farlo. Non si è dimesso dal mandato di governatore e resterà al suo posto fino alla fine del mandato. Che poi non è mica una eccezione, è un po' quello che fanno tutti, perché la stessa cosa fa per esempio il senatore del Nevada John Ensign, che più o meno ha una storia dello stesso tipo. Un altro scandalone finito sulle pagine dei giornali americani: è diventato l'amante della moglie del suo assistente, il suo assistente si chiama Doug Hampton, la moglie Cinzia, e i due si sono messi insieme. L'affare è durato un paio d'anni e alla fine però c'è anche un finale un po' angoscioso, perché la coppia Hamptons, ovvero l'aiutante, l'assistente del senatore Ensign e signora, sono stati liquidati con una cifra poi di $96,000. Uno dice: perché proprio 96,000? Poi, no? Come saranno arrivati a stabilire questo strano risarcimento per togliersi di torno? Poi anche questa storia, come al solito, è saltata fuori, perché tanto saltano tutte fuori, ma anche il senatore Ensign ha detto che lui comunque il suo mandato lo finisce. Mentre un altro che in questo momento non versa proprio in grandi fortune, eppure è stato un protagonista delle nostre cronache americane qui a Radio 24, è John Edwards, no? Numero 3, a un certo punto sembrava numero 2, insomma, della corsa per la nomination democratica, l'uomo con il miglior taglio di capelli della politica americana, al costo di $400 a taglio, un buon affabulatore, compagno di ticket di John Kerry nella rincorsa persa del 2004, poi si è ficcato in una serie di guai, come al solito, di carattere adulterino, ed è letteralmente sprofondato lì e viene appunto rievocato in questi bilanci, no, di corna di fine d'anno di John Edwards. Ha dato molto al riguardo, ha fatto anche un figlio con una sua assistente, come al solito, l'assistente si chiama Riel Hunter. Poi un suo assistente ha detto: guarda che io sto per scrivere un libro sulla mia esperienza al tuo servizio, e il libro poi lo ha scritto e lo ha anche venduto e sta anche per uscire, e naturalmente nel libro non è che posso fare a meno di raccontare le tue malefatte. Insomma, tutto è venuto fuori. Anche la moglie di John Edwards nel frattempo ha scritto un libro, tanto, come dire, per ottimizzare, no? Per ricavare qualcosa. La moglie, tra l'altro, personaggio importante delle cronache americane, malata terminale di cancro, responsabile a suo tempo di un grande duetto insieme a John Edwards, in cui dicevano: noi staremo insieme, lotteremo insieme fino alla fine per il bene del paese, nonostante le malattie, l'amore soprattutto. Poi l'amore a un certo punto invece si è fermato, sono andati avanti i libri ed è andata giù in picchiata verticale la carriera politica di John Edwards, pace all'anima della carriera politica stessa. Infine Tiger Woods, che non può mai mancare da queste cronache, perché voi direte: ma che c'entra con la politica? C'entra, perché c'è un congressista democratico della California che si chiama Joe Becca, che oltre a essere un congressista è un grande giocatore di golf. E allora aveva detto al congresso: ragazzi, mi sembra ora di consegnare la medaglia del congresso al valor civile a Tiger Woods. Ebbene, purtroppo anche in questo caso le cose sono finite male per Joe Baca, una rapidissima, no? Manovra in controsenso per sparire dalle cronache, e per Tiger Woods niente medaglia. E vi risparmiamo le cronache di Eliot Spitzer, governatore dello stato di New York, finito in storie di prostituzione abbastanza spaventose, nonché il ritorno di Monica Lewinsky. Scopriteli da soli questi fatti, tanto i fili da seguire sono ben in vista. Questo è Buongiorno America, io sono Stefano Pistolini, in redazione Gloria Guerrera, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Carmelo Lauricella. Buongiorno America tra 24.it, replica dopo mezzanotte, diretta dopo 1:30 qui su Radio 24. State tutti bene.